English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera incontriamo una giovanissima scrittrice americana che ha intervistato per noi la nostra Alessandra Tedesco. È un vero caso letterario perché lei lavorava in una casa di riposo fino a 2 anni fa e scriveva durante il tempo libero. Ha scritto 17 romanzi. 2 anni fa ha cominciato ad autopubblicarli come ebook. E cosa è successo? Uno di questi romanzi ha cominciato ad avere un enorme successo. Si sono accorti di lei anche nell'editoria tradizionale. Ha cominciato a vendere circa 9.000 copie al giorno e poi ha firmato un contratto da 2 milioni di dollari. Lei si chiama Amanda Hawking, adesso è arrivata in Italia per il suo primo romanzo pubblicato nel nostro paese da Fazzi Editori. E insomma, Alessandra Tedesco un po' le ha chiesto come ha iniziato questa avventura letteraria molto molto particolare. I've been trying to get published with a publisher for like 8 years and I didn't know what else to do. I tried a bunch of different avenues and it wasn't working. And I heard of authors who were doing well with publishing online, so I decided to try it. Readers were just, they found it and they really started spreading the word of mouth about how they enjoyed it. I just was really involved with the writing communities online and talking to people who were reading and writing reviews. I don't know exactly what the first book is. I know that the Switch series, all 3 of the books combined, sold over 1 million copies. But I don't know the individual. Ecco qua, ha incominciato in maniera così molto particolare e appunto con gli ebook, ma aveva cercato di cominciare come si fa di solito. Sì, e questa è la nostra forma verbale, quella complessa che fa un po' paura, che è questo I had been trying to get published. Notate la differenza, non ha detto I have been trying to get published, perché lei in effetti ormai è stata pubblicata, il suo libro è stato pubblicato, quindi è una cosa che si svolge nel passato, ma ci vuole dare l'idea che è stata una cosa molto lunga, che quindi le ha portato via un sacco di tempo, per l'esattezza 8 anni. Quindi avevo cercato di pubblicare il mio libro, di far sì che il mio libro fosse pubblicato for 8 years, per 8 anni. E aveva cercato di farlo per tante strade diverse, letteralmente proprio. Sì, qui attenzione, perché appunto queste sono quelle piccole differenze che a volte sottolineiamo, che fanno capire se sappiamo o no bene l'inglese. Ci facciamo capire lo stesso. Se lei avesse detto bunch of different streets, tentando un bunch, un po' un gruppetto di strade differenti, l'avrebbero capita tutti, però in realtà in inglese, se si vuole usare questa espressione, bisogna usare la parola avenue, che è abbastanza un sinonimo di street, anche se in generale la avenue è più grande, più larga, più ampia della strada. Quindi aveva provato un bunch of different avenues, un po' di strade diverse per arrivare al suo obiettivo di get published. E poi ho scoperto questa cosa e mi sono detta, perché non provarci anch'io? Quindi questi authors che were doing well publishing online. Naturalmente online si può semplicemente tramite il proprio sito, magari persino tramite Facebook è un po' più difficile, però tramite costruire un proprio sito, un blog, è semplicissimo, si può appunto pubblicare. Poi il problema è, lasciamo che tutti lo scarichino oppure lo facciamo anche pagare? E lei comunque decided to try. Qui non dice esattamente quando ha iniziato a farsi pagare, però è chiaro che a un certo punto ha chiesto anche probabilmente un contributo per la possibilità di fare il download. E sì, è tutto diffuso tramite, noi diciamo il tam tam. Sì, oppure passaparola, e invece in inglese dice word of mouth, che letteralmente vuol dire la parola della bocca, cioè di bocca in bocca. C'è un modo molto rapido per far diffondere un libro ed è quello di raggiungere le communities di appassionati. Che appunto è un mondo che forse, come poi lei spiega anche dopo, non è un lavoro comunque occuparsi di tutte queste communities online, però lei ha cercato di get involved with communities online, cioè di contattarli e poi reading and contattare appunto queste persone who are reading and writing reviews, perché anche qui in America che è molto più diffuso che in Italia, però anche in Italia cominciamo ad avere dei siti, o comunque dei siti in italiano, di persone che appunto fanno le loro recensioni di libri e magari segnalano libri pubblicati in modo tradizionale che possiamo comprare in libreria o che possiamo download online. Alessandra Tedesco le ha chiesto: ma quanto hai venduto? Lei non sa bene il singolo libro, perché ha fatto questa trilogia, questi three books combined, e hanno venduto tantissimo. Sì, quindi lei dice proprio The Switch Series, questo è il titolo appunto che diceva prima Marta, over a million copy, quindi più di 1 milione di copie, e però non sa, non si ricorda o non le hanno mai detto, e qui, questo mi fa pensare che probabilmente tutta una buona parte sono stati scaricati gratis, no? Magari uno dal valore economico trarrebbe questa individual figure, quindi lei non sa di individual figure dei singoli libri che compongono la trilogia. Ma andiamo a scoprire chi sono i protagonisti di questa trilogia, partendo da Wendy. Alessandra Tedesco ha chiesto a Amanda Hawking di parlare dei protagonisti dei suoi libri. When Wendy was 6 years old, her mother tried to kill her because she thought she was a monster. And now Wendy's 17 and she's discovered that her mom may be kind of right, so she has to go back to her real people and find out who she really is after spending her whole life not feeling like she fits in. And she falls in love and gets in trouble and grows up. She's just kind of learning what they are in the first book, but she has the ability to do to get people to do what she wants just by thinking it, and as the books go on, her abilities grow. Finn is a guy who is new to the school that Wendy's at, and he at first seems kind of a little creepy and weird, but as the story goes on, Wendy finds out that he is actually the only person that really knows exactly what she is and what she can do, and he kind of helps lead her back into the world where she belongs. Dalla descrizione dei personaggi cominciamo ad avere ben chiaro qual è il genere di Amanda Hawking. Sono dei personaggi che secondo me possono piacere molto ai ragazzi, e poi scopriremo qual è il pubblico che lei ha in mente, diciamo degli stereotipi un po' così particolarmente graditi secondo me ai giovani d'oggi. Sì, poi potremmo quasi usare quella parola misfit, che è il titolo di quel film che poi in italiano era Gli Sbandati, The Misfits, che da fit, che vuol dire stare bene, stare dentro, e miss, che vuol dire, sappiamo, come misunderstanding, qualcosa che invece non funziona, perciò qualcosa in cui non si sta dentro, da qui Gli Sbandati. Ecco, questa ragazzina che quando aveva 6 anni, her mother tried to kill her, la madre addirittura aveva pensato di ucciderla perché she thought she was a monster, perché credeva che fosse un mostro. Poi quando Wendy arriva a 17 anni, l'autrice riconosce che her mother may be kind of right. Ricordate che maybe, tutto attaccato, vuol dire forse, ma to maybe vuol dire potrebbe essere, quindi la madre avrebbe potuto avere ragione. Insomma, questa ragazzina in un modo o nell'altro era anche lei una misfit. E ci troviamo Wendy 17enne, quindi diciamo con un'età perfetta per i giovani appassionati di letteratura. Sì, è proprio spiega che lei aveva spending her whole life, quindi stava sprecando, in un certo senso stava spendendo tutta la sua vita, questo all che vuol dire tutto quanto, quindi non scritto all ma whole, tutta la sua vita not feeling like she fits in, con questa sensazione o meglio letteralmente con la mancata sensazione di essere al suo posto, quindi di sentirsi fuori posto. E poi c'è anche un personaggio maschile, questo Finn, che è un suo compagno di classe, ho capito bene? Sì, e all'inizio le sembra creepy and weird. Creepy è qualcosa che ci fa venire i brividi, si usa spesso nei fumetti o nel film dell'orrore. Weird vuol dire un po' pazzoide, quindi le sembra subito forse un misfit come lei, però he is the only person che la capisce, perché poi lei, questa è un po' il punto del libro, ha questa capacità di just by thinking it, le basta pensare una cosa e she can get people to do what she wants. Non è male, insomma, affinare questa capacità che lei scopre di avere, che se pensa intensamente a quello che vorrebbe che le persone facessero, alla fine le persone lo fanno. E Finn sarà un misfit pure lui, però già mi sa di personaggio affascinante, perché è l'unico che riesce ad aiutarla. Sì, perché poi appunto ci deve essere una specie di mondo parallelo, però Finn capisce che il meglio per Wendy è forse lead her back to the world where she belongs, cioè riportarla nel mondo a cui appartiene, che poi capiremo qual è quello delle persone che non possono imporre il comportamento col loro pensiero. Mi piacerebbe ogni tanto e quelle che invece possono farlo. Ma scherzi a parte, a chi sono destinati i libri di Amanda Hawking? I think it's aimed at, I guess, anybody who really enjoys fantasy. There's a lot of people who are really into the paranormal and the romance stuff right now, and so I think that there's a wide audience of people who enjoy that. I plan on exploring horror a bit more, but I think I'm well, all my books are classified as fantasy. I think that right now it is a really good time to be a writer, but you should really do research into all your options, both self-publishing and traditionally publishing. And because no matter what choice you make, it's going to be a lot of work, and there's no guarantee that you'll sell, but the more you know, the better you'll do. Beh, intanto lei si sta ripromettendo di fare due cose. Uno, di esplorare il genere horror, e poi comunque di continuare a studiare molto. Lei dice che comunque il pubblico è questa wide audience che enjoys fantasy and paranormal, non paranormal activities, ma insomma romance. E poi I plan on, quindi in diverso in inglese, ho dei piani su, invece che sto facendo dei piani di fare questa cosa, quindi I plan on exploring horror a bit more. Mi sembra una coi piedi per terra, perché comunque sa che anche andando avanti niente sarà scontato. There's no guarantee. E poi qui uso un'espressione che è veramente versatilissima, e lei dice the more you know, the better you'll do, che letteralmente è il più sai, il meglio farai, ma lo possiamo usare in qualsiasi modo, non so, the more sugar you put in the coffee, the better it will taste. Più zucchero metti nel caffè, più saporito sarà. Si conclude qui la nostra puntata di English 24. Ringrazio Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.